Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano... Questo è... Shuffle, scattini Polaroid in riproduzione casuale. Miscellanea. Raccolta di cose di varia natura, insieme eterogeneo, massa composita o mescolanza. All'estremo opposto della purezza iconica del diamante, la vita che conduciamo ogni giorno non è altro che un'ordinata alternanza di insiemi misti, una misticanza. Le etnie e le classi che compongono la società, i cibi che ingurgitiamo, gli abiti che abbiamo addosso e la cultura che ci racconta sono il prodotto di una fusione, della sovrapposizione continua nel tempo di elementi diversi che si combinano, perdendo un po' della loro identità iniziale per generare qualcosa di nuovo. Più di ogni altra forma d'arte, la musica vive di miscellanea. Rimastica il passato e lo rigenera in forme contemporanee, recuperando elementi noti, generi e groove, per riproporli in una veste diversa. Non troppo vicina a ciò che era, ma abbastanza lontana per sembrare diversa. Così come la musica, anche Polaroid diventa slime, spezzetta in fattori minimi le istantanee del suo passato e le ricombina in un nuovo cocktail, sperimentando accostamenti, fusioni e stridori degli insiemi a base di caos. 10 storie, 10 canzoni, 10 epoche legate random. Mettetevi comodi. Inizia Shuffle, riproduzione casuale di scatti di Polaroid. Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. Infinite metamorfosi. Le maschere di Francesco Pannofino. Sono le 9. Tutti i barbogi del pianeta seduti sul sofà sorbiscono sherry, mentre quelli che amano il rock ed il roll sono pronti a rockare e a rolleggiare ancora una volta. Siete su Radio Rock e io sono il Conte e conto su di voi per il conto alla rovescia, all'estasi e al rock all day and all of the night. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. New York City, 647 Broadway e Bleecker. È la notte di San Valentino. All'esterno di un fabbricato industriale ci sono 200 persone che masticano qualcosa. Metaqualone, qualud per gli amici, il biscotto del gorilla. Serve per non sentire la fatica ed è meglio ingoiarlo adesso.

I just can't get enough, I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you keep me alive. And I just can't seem to get enough. The Shuffle torna fra poco. Torna fra poco. Per un altro scatto scelto dal caso. Questo è Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. Violenti, deviati e sociopatici. Il bestiario di Ferruccio Amendola. A 19 anni dalla sua scomparsa, il mito di Ferruccio Amendola è ancora impossibile da raggiungere, perché le storie che ci ha raccontato, con la sua voce, con la sua anima, non si possono raggiungere con ponti o strade. Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88. Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. We're

classy, hands in the air. That means many be cooperating. I can't stop relating. Hip hop is making more sense when I'm stating paragraphs and potential to prevent you from using my instrumental. Keep in mind, I meant to illustrate another ill break immediately. Hurry up and learn the words and repeat it with me. Then soon you're in tune and up to par. And then you're doing it with the R. You keep doing it with the R. The R. In the summertime, pockets bulging. Something's happening, then I'm indulging. Music is mine, Gucci seats recline, go grill. A paint job of shine. Pull up in the park and then pop the trunk. Turn up the bass and let the system thump. My block party start to form. People start to swarm. Loud as a ghetto blast, the word is born. Records remind you of a madness. The moment is played, you get gladness. The return of the brother, keeping you up to par. And you're doing it with the R. You know what I'm saying? The microphone theme rock him in full effect. DJ Eric B, need more records to wreck. To the Queen's Posse, you're doing it with the R. Brooklyn, you're doing it with the R. The Bronx is doing it with the R. Manhattan, keep doing it with the R. And Strong Island, you're doing it with the R. Wine dance in a painful posse, doing it with the R. Peace to the nation of Islam, and I'm out of here. Out, out, out, out, out. Yo, what happened to peace? Peace, peace, peace, peace, peace. Un altro scatto. Un'altra storia. Un'altra istantanea casuale di Polaroid. Sempre qui, dopo la pubblicità. Shuffle. Polaroid Shuffle. Riproduzione casuale di storia della musica. 1996, Chicago. Dopo l'ultima data del tour, Billy Corgan è praticamente sparito. Dicono che sia tornato in Illinois e che stia chiuso in casa a scrivere canzoni. 55 canzoni per la precisione. E gli fanno tutte schifo. Allora, prima di raggiungere gli altri in studio, ne scrive un'altra, la numero 56. Racconta la storia di un ragazzo di 12 anni alle prese con i cambiamenti del corpo, del tempo, del mondo. E il pezzo gli piace. Gli piace un casino. Al suo produttore, invece, fa altamente cagare e non ha alcuna intenzione di inserirlo nel nuovo album degli Smashing Pumpkins. Così Billy si incazza, si richiude in una stanza e in 4 ore lo riscrive da capo. E questa volta finirà nell'album. Tutto merito della determinazione di Billy e della sua voce in sottofondo che dice Today. Registrata, distorta, rielaborata e sovrapposta alla chitarra così tante volte da diventare il suono più caratteristico di 1979.